Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ci sedemmo sopra il letto. Lui tirò fuori dalla cassa un candelotto, aprì la carta che avvolgeva l'esplosivo e cominciò a riempire due lattine di Coca-Cola vuote. Di seguito fece un buco al centro dell'impasto, ci infilò una miccia lunga 30 centimetri e ci aggiunse del pietrisco. Eravamo tutti e due sudati. Mi schiacciò l'occhio e mi disse: ora puoi andare a riposare. Ci vediamo stanotte. Mi chiamo Matteo Vincenzo, vivo a Milano, sono nato nel fatidico 1952, dico così perché in questi giorni dovrei vedere se esistono le condizioni per poter andare in pensione. Il 22 dicembre del 2011 è una bella giornata per parlare di familismo amorale, soprattutto se fino a una settimana fa non se ne sapeva niente. Dopodiché Tiziano Bonini, mentre leggevamo la puntata di oggi, mentre leggevamo il racconto di oggi, si è soffermato su un dettaglio di questo racconto, nel senso che questo è più o meno quello che ci succede sempre quando inviate le vostre storie, che poi sono un piccolo episodio della vostra vita, a voi siete qui, @radio24.it. succede che più o meno ognuno di noi, leggendole, coglie una o due cose sostanziali che sono più o meno il cuore del vostro racconto e che magari voi non ve ne rendete conto, o magari semplicemente voi non avevate in mente di farci notare quella cosa lì, però noi notiamo quella. In quel caso Tiziano ha notato una frase che è esattamente questa. Il racconto è molto interessante, questo non è un episodio minimo, come dicevo gli altri giorni, questo è un episodio anzi abbastanza importante, per certi versi anche leggermente sconvolgente per come accade, per il rischio che si corre durante il racconto di questo episodio. Insomma, a un certo punto il protagonista di questo episodio, che insieme all'autore vive questa storia, dice questa frase per giustificare un comportamento che non è proprio probo. Lo guarda e gli dice: sai com'è? Tengo famiglia. Leggendo questa frase, Tiziano mi ha raccontato una cosa di cui più o meno ognuno di noi aveva già sentito parlare, che è un testo del 1958 che si chiama Le basi morali di una società arretrata. La storia è abbastanza semplice, nel senso che l'autore di questo testo, che si chiama Edward Banfield, attorno al 1950, alla metà del 1950, venne in Italia e andò in un piccolo paesino della Lucania che lui chiamò Montegrano, così, nome fittizio, ma che probabilmente è un paese che si chiama Chiaramonte, proprio in Basilicata, e visse per 8 mesi con gli abitanti di questo paese. Lo scelse perché sosteneva che quello era un luogo in cui si viveva una arretratezza abbastanza vistosa sotto il profilo economico e sociale. E sviluppò questa teoria che si chiama familismo morale, che detta malissimo da me ora significa avere semplicemente più a cuore il bene del proprio nucleo familiare, quello ristretto, piuttosto che quello della società. E secondo Banfield questa è una delle cause dell'arretratezza economica, sociale e culturale di molte zone del mondo. 349-238-6666, oppure voi siete qui @radio24.it, se vi è capitato di essere protagonisti di questa cosa, se vi è capitato proprio con il cuore in mano di dire: oh sì, è vero, l'ho fatto, sai com'è, tengo famiglia. Paola mi ha scritto, anche se però non è proprio un esempio di familismo morale, però: ho buttato del compensato in legno scaricato dai vicini nel locale immondizia nel cassonetto della carta perché la società non lo raccoglieva. Qui c'è già un doppio senso di colpa, il senso di colpa per sé, per aver fatto una cosa così immorale come aver gettato del compensato in legno laddove non andava gettato, ma soprattutto c'è uno scaricamento di colpa nei confronti dei vicini perché loro l'avevano scaricato, maledetti. Danilo mi dice: questo concetto si chiama familismo morale, appunto il concetto di tengo famiglia. 349-238-6666. Ovviamente questa teoria, la teoria del familismo morale, e lo stesso libro di Banfield che si chiama Le basi, vi ripeto, le basi morali di una società arretrata, sono stati molto criticati, non tutti ci vedevano della verità in quello che lui sosteneva. Però devo dire che in questa frase che lui usa nel suo libro c'è, direi, una parte di ragione, perché lui sostiene che gli abitanti di questo villaggio villaggio, questo paese dove lui è rimasto, agiscono come se eseguissero una regola generale molto semplice, e cioè massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare e supporre che tutti gli altri intorno si comportino allo stesso modo. 349-238-6666. La storia di oggi, appunto, è una storia che parla, in realtà parla d'altro. Parla di un pescatore e parla di una pesca molto particolare, ma soprattutto una pesca fuori legge, che avveniva, avevamo detto Tiziano, tipo negli anni 70 probabilmente, diversi anni fa, ma poi chiediamo a Vincenzo, chiediamo meglio quando succedeva tutto questo esattamente. Ripeto, parla quindi di una storia che non ha strettamente a che fare con familismo morale, però all'interno di questo racconto c'è proprio quella frase lì. Sai com'è? Tengo famiglia. Da un sacco di tempo chiedevo al vecchio pescatore di andare con lui a fare quel certo tipo di pesca. Lui però mi opponeva sempre un diniego totale. Un giorno, invece, inopinatamente, mi disse che quella notte mi avrebbe portato a pescare. Era un pomeriggio di piena estate. Entrammo nella sua stanza da letto. Lui chiuse a chiave la porta e immediatamente l'aria si fece pesante, rovente. Il pescatore, sdraiatosi sotto il letto, aveva estratto una cassa di dinamite. Ci sedemmo. Lui tirò fuori dalla cassa un candelotto, aprì la carta che avvolgeva l'esplosivo e cominciò a riempire due lattine di Coca-Cola vuote. Di seguito fece un buco al centro dell'impasto, ci infilò una miccia di 30 centimetri e aggiunse del pietrisco. Eravamo tutti e due sudati. Mi schiacciò l'occhio e mi disse: «Ora puoi andare a riposare, ci vediamo stanotte». Verso sera feci un giro lungo il porto. Molti albergatori e proprietari di ristoranti si lamentavano che c'era una forte richiesta di pesce fresco da parte dei turisti, ma c'era penuria di pescato. Qualcuno disse: «Boh, forse domani riusciremo ad avere un rifornimento straordinario». Verso le 3 del mattino il vecchio pescatore mi venne a svegliare. Un caffè e via, per le strade deserte del paese che scendevano verso il piccolo porticciolo. Ogni tanto guardavo la borsa di plastica del mio amico. Ci si intravedevano alcuni pomodorini, dei vascuotti, un certo tipo di pane biscottato che gli aveva preparato la moglie, e un paio di lattine di Coca-Cola. Arrivati al molo, prima di imbarcarci sul piccolo gozzo, mi fece segno di prendere della rete, che sembrava lì, abbandonata vicino. Tenevo tanto ad uscire con questo pescatore perché era una persona che sapeva perfettamente, cioè aveva una serie di competenze, però mi era incuriosito questa forma di pesca. In un paesino del Cilento, quindi giù nella Campania, io avevo 18 anni. Partimmo utilizzando il minuscolo motore diesel posto al centro di quel piccolo gozzo, mentre la luna, che era sorta poche ore prima, illuminava la distesa di mare. Superata la piccola lanterna che delimitava la bocca del porticciolo, andammo verso il grande promontorio, quello sormontato dalla vecchia torre saracena. Accostammo su un piccolo scoglio e il pescatore, nonostante l'età, ci saltò sopra agilmente. Poi mi fece cenno di allontanarmi, di spegnere il motore e di preparare i remi, di tenermi lì a una certa distanza. Lui intanto salì lungo il promontorio, si accovacciò su uno sperone e si mise a fissare il mare. Restammo quasi un'ora in totale silenzio, ascoltando lo sciabordio del mare tra gli scogli. Poi si alzò, mi fece un fischio, accostai e con tutta la velocità che ci permetteva il piccolo motore ci recammo verso l'altro promontorio che racchiudeva la baia, al cui centro sorgeva il piccolo paesino di allora. Anche questo promontorio era sormontato da una torre saracena e a qualche centinaio di metri verso l'orizzonte un'isola bassa proteggeva con la sua mole una piccola spiaggia. Alle sue spalle, nel folto degli uliveti, erano insediati un paio di campeggi. Quella notte, mentre a oriente si indovinavano i primi barlumi del sole e la luna incominciava a svanire, il vecchio pescatore ripeté gli stessi gesti che aveva appena eseguito. Si inerpicò lungo il promontorio, accovacciato su uno spuntone, restò in attesa, mentre io sul gozzo remavo, facendo in modo di restare nelle vicinanze. Dopo un certo tempo, improvvisamente, il pescatore si alzò. Mi fece segno di avvicinarmi, raccomandandomi però con un gesto delle mani di non fare rumore. In un attimo salì sul gozzo, si posizionò in piedi sulla prua, facendomi segno di accendere il motore e andare tra l'isola e la spiaggia. Nel frattempo estrasse le due lattine dalla borsa. Con un accendino diede fuoco a un pezzo di fune e tagliò di alcuni centimetri la miccia di quelle due piccole bombe. Si riposizionò in piedi sulla prua e in una mano aveva il pezzo di fune acceso, nell'altra una delle due lattine. Facemmo il giro intorno all'isola, due volte. Intanto il sole spuntava all'orizzonte. Al terzo passaggio, tra l'isola e la spiaggia, accese la miccia con il pezzo di fune ardente e subito la lanciò fuori bordo. Con un balzo mi raggiunse, impugnando la barra del timone. Dopo alcuni secondi udimmo un boato alle nostre spalle. Proseguimmo velocemente intorno all'isolotto e ritornammo sul luogo del misfatto. L'acqua del mare ancora ribolliva. Numerosi pesci guizzavano venendo a galla. Numerose erano le ricciole, il vero bersaglio del pescatore. D'un tratto però scorgemmo poco distante la testa di una persona che si era tolta il copricapo della sua muta e tentava di restare a galla. In those years of solitude I was a tear on the face of youth. Then came you, my gratitude, my lily from the sky. Baby hush, baby be calm and keep the dreams in your heart just as clean as they are tonight. But give them a high price, so only a few can get in. And be kind to your love. Io guardai il pescatore, che mi fece segno di accostare in silenzio. Il subacqueo frastornato stava invenendo contro i soliti maledetti bombaroli. Issammo a bordo il malcapitato sub. Era in stato confusionale. Mentre io gli prestavo i primi soccorsi, il vecchio pescatore incominciò a raccogliere con un retino le preziose ricciole, o almeno le più grosse, quelle che la deriva portava vicino alla barca. Dopo alcuni minuti l'uomo ferito si riprese, mentre il vecchio pescatore continuava a pescare, imprecando contro quegli sconsiderati che rovinavano l'ambiente marino e potevano uccidere anche qualche cristiano, disse. Improvviso poi il pescatore si rivolse al sub, dicendogli che se era pur vero che alcuni sconsiderati avevano buttato una bomba, anche lui era un incosciente, perché si immergeva senza il regolare pallone di segnalazione, e meno male che eravamo sopraggiunti noi, dopo quelli là, e non l'avevamo investito. Il sub farfugliò delle giustificazioni, intanto però i pesci più pregiati erano già stati raccolti pazientemente dal retino. Finita la pesca, nuovamente si rivolse al sub, il pescatore gli chiese come si sentisse. Dopo aver ricevuto parole rassicuranti, un po' da impertinente gli fece una proposta. Il vecchio pescatore, sporgendosi della murata del gozzo, fece notare al sub che diversi pesci, tra cui molte ricciole, giacevano sul fondale, a circa 3 metri di profondità. E tra lo stupore mio e del sub, gli chiese se si sentisse di scendere nuovamente in mare per raccogliere quel ben di Dio. Personalmente mi sentivo sempre più a disagio e meravigliato dalla disinvoltura del pescatore che stava volgendo a suo favore una situazione che solo per un caso fortuito non si era conclusa in tragedia. Nel frattempo, davanti ai miei occhi meravigliati, il sub si era immerso e aveva incominciato a porgerci le ricciole più grandi, quelle che trovava sul fondale. La faccia del pescatore era tra lo stordito e lo spaventato. Quella mia, e soprattutto quella del pescatore, era tra il meravigliato e quello di essere costernati per aver arrecato magari un danno grandissimo a questa persona. Dopo alcuni minuti il sub risalì in barca, anche perché, disse, le continue immersioni gli avevano causato mal di testa e non voleva rischiare. Si stupì della grandezza dei pesci che vide nel fondo del gozzo. Il vecchio pescatore però gli spiegò che in realtà il rifrangere dell'acqua creava un effetto ingrandimento, ma che in fondo il pescato era tutto lì. Incominciò dunque a sistemare in una cassetta parte del pesce. Poi, rivolgendosi al sub, gli chiese dove volesse essere lasciato. Quest'ultimo fece cenno di accostare verso la spiaggia, dove nelle vicinanze si scorgeva uno dei due campeggi, e lo abbandonammo lì. Intanto il sole era sorto e noi volgemmo la prua del gozzo verso il porto, che si scorgeva in lontananza. Arrivati al molo, ci aspettavano alcuni degli albergatori e gestori di ristoranti, quelli che avevo sentito lamentarsi la sera prima e che si davano di gomito. Ognuno di loro si prese una cassetta di ricciole, pagandole a un prezzo che la faccia cotta del vecchio pescatore approvò con un largo sorriso. Ritornammo a casa in completo silenzio. Poi il pescatore si fermò sotto l'ombra di un albero di ulivo, che a quei tempi erano ancora presenti nel vecchio bordo, e in dialetto mi disse: «Sai com'è? Tengo famiglia». Forse io, che oramai lavoravo in una città del nord, in quel momento non capii bene che questo era il motivo per cui aveva tentato prima di non portarmi a fare quella pesca miracolosa. Rimasi zitto nei giorni successivi e, munito di maschere e pinne, mi immersi nel punto in cui era avvenuta l'esplosione. Tra rocce e gorgonie distrutte si intravedevano ancora pesci straziati. Per alcuni anni, d'estate, mi immersi in quel posto e notai che solo dopo molto tempo la ferita inferta al mare si rimarginò. Capitò alle volte poi che al tramonto mi ritrovassi a bere una bella birra con quel vecchio pescatore. Tropical island, oh, oh. Tropical island, oh, oh. Feel the sea breeze waiting to lay you down just like a diamond, oh, oh. Ring ding, another one dies, watching posers scandalize, trading off their panty lines one day. Tropical island, whoa, whoa, whoa, whoa. Alex da Siena mi scrive: il libro di Banfield è la pura verità e vale per tutta l'Italia, solo che gli antropologi italiani lo denigrano. Leggilo tutto, mi scrive. Tutto, tutto completamente. Mazza, tutto mi sa che è lungo, io non vado oltre le 100 pagine di solito, tipo come gli spettacoli. Quanto dura? Un'ora, massimo un'ora, un film un'ora e mezza. 349-238-6666, erano 41 anni fa, Vincenzo era là e adesso è qui. Pronto, Vincenzo? Ciao, buonasera, buonasera Matteo e complimenti per la trasmissione. Ti ringrazio, come stai? Bene, bene. Dove ti trovi in questo momento, Vincenzo? Ma non lo vedresti mai, sono alla stazione centrale perché c'è un problema occupazionale per dei lavoratori, sto portando la solidarietà. Perché tu nella foto che ci hai mandato hai su una pettorina della CGIL. Sì, sono, lavoro per la CGIL, anche un funzionario, e ci abbiamo fatto alcune cose e oggi mi sono implicato in questa storia dei treni notturni, ecco. Scomparsa dei treni notturni? Dei treni notturni, sì, e ci sono tre lavoratori qui da 12 giorni su una torre della stazione centrale che stanno protestando perché tra le altre cose sono stati anche licenziati, non è che trasformano l'azienda ma ricollocano la gente, vabbè. Comunque insomma, almeno in questo caso tutto legale, non come col pescatore, Vincenzo. È tutto legale, però la mia vita, questo mio impegno è proprio lì che è nato, adesso senza enfatizzare troppo. Ma guarda, infatti ti volevo chiedere proprio, credo che stiamo per dire la stessa cosa, Vincenzo, nel senso che questa cosa succedeva 41 anni fa, no 41, sì. Perdonami, no anni 70, era il 70, giusto, 41 anni fa. E quando io chiedo un episodio della propria vita da raccontare, poi mi domando, sì, perché è stato scelto quello, e questa domanda te la giro, cioè perché... Sì, no. Perché hai scelto questa storia qua che ti è successa quando avevi 18 anni? Allora, sono stato un quarto d'ora, anche di più, a pensare se scrivere o meno quella frase fatidica che soprattutto per noi nel meridione vuol dire tante cose. Tengo famiglia, no? Da una parte. L'altra, quindi con tutte quelle considerazioni, adesso io non ho letto il libro che dicevate assolutamente, però tutta una serie di considerazioni. L'altra è il finale del racconto, quando dico che poi il rapporto non è stato più tra me e lo lui stesso. Lo stesso, proprio perché si è rotto un diaframma, si è rotto un qualche cosa, si è rotto una certa cultura, un pizzico di omertà, io ho fatto un'altra strada e da lì è incominciato, ho detto no, non può andare sempre così, non si può restare sempre zitti. Vincenzo, scusami, dove accadeva questa cosa? Hai detto un paese del Cilento, giusto? Sì. Che è il tuo paese di origine? Sì. Di cui però giustamente non vuoi fare il nome, perché saremmo... È nelle vicinanze di Capo Palinuro. Ok, questo pescatore è ancora vivo, quantomeno? No. Purtroppo qualche anno fa poi ci è mancato, era una persona straordinaria, era un autodidatta, mm-hmm, però c'aveva una competenza. Autodidatta a fare il pescatore o a creare le bombe? No, entrambi. Aveva tantissima paura, sa che nelle nostre feste padronali giù c'è anche questo discorso di sparare i fuochi artificiali, sì, no? Sì. A me aveva sorpreso che lui era impaurito, scappava sempre e non riusciva, e da lì poi è nata questa curiosità. E siccome facevo anche quell'altra cosa, ho detto, ma come mai? Ecco, questa è stata un po' la leva della storia e della conoscenza anche con lui. Mi ero incuriosita del perché era uno dei pochi meridionali che aveva una paura terribile dei botti, degli esplosivi, sparati legalmente, no? Senti, tu ci torni spesso alle feste comandate d'estate, sì, Natale? Sì. Cioè, hai casa e parenti? C'è la casetta, no? I parenti oramai sono... E hai in mente di tornarci se ti danno questa fatidica pensione? Com'è che l'hai chiamato? Il fatidico 54? 52. 52, scusami. Sì, è quello più a rischio. Hai in mente di tornarci per la pensione oppure no? Sì, in parte lì e in parte anche restare qui a Milano, perché poi è chiaro che dopo 40 anni ci sono anche delle radici, poi lo immagino. Mi ha dato tante opportunità culturali, di lavoro. Vincenzo, senti, io devo mandare la borsa perché sai, gli orari sono quelli. Ti lascio al tuo lavoro in stazione centrale e grazie mille per il tuo racconto e la tua storia. Grazie a voi, augurioni. Ciao, buona giornata, grazie mille. Voi siete qui. È molto bella l'illustrazione di oggi. C'è, per chi non lo sapesse, sul sito di Radio 24, la pagina di Voi siete qui, ogni giorno, insieme alla storia, un pezzo della storia che vi racconto, e insieme alla mappa che stiamo costruendo con tutti i puntini dove si trovano gli autori delle storie che ci arrivano quotidianamente, c'è anche un'illustrazione che da un paio di settimane e per le prossime due settimane dopo il Natale sono curate dagli studenti del secondo e terzo corso di illustrazione dello IED di Milano. Quella di oggi raffigura un pescatore, ovviamente, ha una faccia simpatica, però è credo fatta in... come si dice? Dire che è fatta al computer vuol dire niente, però probabilmente ha qualcosa di arte grafica, sì, informatizzata. Al computer, fatta al computer. C'è un pescatore con la faccia gialla, non si capisce bene il perché. Ci sono delle onde e dei pesci con gli occhi un po' spaventati. Il pescatore tiene in mano una canna da pesca con un candelotto di dinamite. L'autore di questa illustrazione in computer grafica, come suggerisce Paolino Corleoni, si chiama Zeynep Nursa Koskun. Si chiama Zeynep Nursa Koskun, che credo sia di origine, non lo posso sapere, però così a naso credo che sia di origine, potrebbe essere birmana ad esempio, o no, nigeriano no, Koskun Nursa. Se qualcuno sa da dove può arrivare questo nome, Zeynep Nursa, scusatemi. Zeynep Nursa Koskun, non ne ho letta una giusta, forse Iran, potrebbe essere qualcosa di Iran. Se qualcuno sa da dove può arrivare questo nome, 349 238 6666. Grazie a quelli che scrivono al 349 238 6666, che questa pesca è illegale, grazie, lo sappiamo tutti, e non è che lo raccontiamo perché venga fatta, semplicemente era un episodio della vita di Vincenzo. Quando ero piccolo io andavo a pescare non con la dinamite ma con i barattoli, che sai che i polpi si prendono in questo modo: metti un barattolo vuoto sulla tana, sul buco della tana del polpo, lui vede nero e ci entra. Non so se anche questo è illegale. Se è illegale io non l'ho fatto, me l'hanno raccontato. Se invece è legale, credo di averlo fatto in gioventù. 349 238 6666, d'altra parte tenevo famiglia. Altri messaggi che suggeriscono che Banfield ha ragione. Tra l'altro ho fatto una veloce ricerca su di lui proprio durante la borsa, non perché non seguissi la Rosciani, al contrario, semplicemente perché ero concentrato su questa cosa, e c'è un elenco delle possibili conseguenze sulla società che questo atteggiamento può avere, quella dell'appunto essere più attenti al nucleo familiare che non al vivere comune, alla società. Alcune conseguenze, ve le butto lì. Nessuno perseguirà l'interesse comune, salvo quando ne trarrà un vantaggio proprio o per la propria famiglia. 2. Chiunque affermerà di agire nell'interesse pubblico sarà ritenuto un truffatore. 3. Solo i pubblici ufficiali si occuperanno degli affari pubblici, perché pagati per farlo. I cittadini non se ne occuperanno e se lo facessero verrebbero malvisti. 4. I pubblici ufficiali saranno poco controllati, perché per farlo è affare di altri pubblici ufficiali soltanto pagati per quello. Oppure ancora, è a caso, non ci sarà alcun collegamento tra i principi astratti, politici o ideologici e il concreto comportamento quotidiano. Ancora, la legge sarà trasgredita ogni qualvolta sembrerà possibile evitarne le conseguenze e mandare sotto un sub a pescare altri pesci che non sono stati pescati. Sarà difficile creare e mantenere una qualsiasi organizzazione, perché ciò richiede una certa dose di disinteresse personale e identificazione e la lealtà verso l'interesse dell'organizzazione contro l'interesse privato. 349 238 6666, ecco, più o meno queste sono le conseguenze che Banfield raccontava potevano accadere in base a questa storia che vi ripeto è stata raccolta a metà degli anni 50, e adesso infatti volevo leggervi proprio un pezzo in cui Banfield spiega esattamente come ha fatto questa sua ricerca. Prima però, a questo proposito, anche se non c'entra, però c'entra, Volevo leggervi come finisce il viaggio in Italia di Goethe. Goethe venne in Italia a fare il Grand Tour nel 1786, non so quanto ci rimase, forse un anno o due. E nel finale lui descriveva in questo modo l'Italia. Ecco, questa è l'Italia che lasciai. Sempre polverose le strade, sempre spennato lo straniero qualunque cosa faccia. Cerchi invano le probità tedesche. Qui c'è vita e animazione, non ordine e disciplina. Ciascuno pensa solo a sé e diffida degli altri. E i reggitori dello Stato, anche loro, pensano a sé soli. Era il 1786 e lo scriveva Goethe. Questo invece più o meno è la ricerca che ha fatto Banfield. Lo studio concerne un solo paese dell'Italia meridionale, la cui estrema povertà e arretratezza si possono spiegare in gran parte, ma non interamente, con l'incapacità degli abitanti di agire insieme per il bene comune, o addirittura per qualsivoglia fine che trascenda l'interesse materiale immediato della famiglia nucleare. Tale incapacità di organizzarsi attivamente, al di là della ristretta cerchia familiare, deriva da un ethos, chiamato familismo amorale, prodotto da tre fattori operanti congiuntamente. Il primo è l'alta mortalità, il secondo è un determinato assetto fondiario, terzo è l'inesistenza dell'istituto della famiglia estesa, cioè di tipo patriarcale. La mia famiglia, mia moglie e io e i nostri due figli di 8 e 10 anni abbiamo vissuto tra i contadini di Montegrano, il nome è un nome fittizio, per 9 mesi, tra il 1954 e il 1955. Mia moglie ha intervistato 70 abitanti, molti dei quali contadini. Non è nostra intenzione provare nulla, soltanto sottolineare e illustrare una teoria che può essere poi rigorosamente verificata da altri. Alcuni lettori possono pensare che il familismo amorale, o qualcosa di molto simile ad esso, sia presente in realtà in ogni società, da quella americana al Sud Italia. La nostra risposta è che il familismo amorale è uno schema ricorrente, è una sindrome. Una società che esibisce alcuni dei sintomi costitutivi di questa sindrome è decisamente differente da un'altra che ne esibisce tutti i sintomi assieme. È un problema di gradazione. Non importa quanto egoisti siano i membri di questa società. Una società non è già più moralmente individualista o familista se è riscontrabile in essa un certo grado di spirito pubblico o almeno di interesse privato illuminato. I montegranesi agiscono come se seguissero questa regola generale: massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare e supporre che tutti gli altri si comportino allo stesso modo. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, trouble so hard. Visto che spesso lo chiedete, tutti i brani che mandiamo, compreso questo, lo trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. Nella fattispecie, su questo io mi soffermerei un secondo, sì, posso farcela, perché molti di voi se lo ricorderanno in una canzone di Moby, giusto, remixato da Moby in un disco che si chiamava Play di ormai 10 anni fa, direi, almeno 10 anni fa. Tiziano invece mi diceva che questo pezzo originale è un pezzo che è stato raccolto nel 1934 da un antropologo che sarebbe meglio definire etnomusicologo, che si chiamava Alan Lomax. Questo era un canto rurale, credo del sud degli Stati Uniti, probabilmente un canto nero, immagino, giusto, dei lavoratori, che infatti parla di lavoro ed è una sorta di mantra che si cantava. Era pieno anche di canti simili nel sud Italia, mi ricordo uno in particolar modo che si cantava in Calabria, dove si cantava di raccogliere il cotone, raccoglierne sempre di più. Non ricordo bene le parole, però più o meno suonava in quel modo. Allora siamo arrivati anche probabilmente a capire da dove arriva il nome dell'illustratore di oggi, che ricordo è Zeynep Nursak Özkun. C'è chi dice kazako, c'è chi dice per me potrebbe essere afgano, curdo, iracheno. Grazie per la precisione. E poi i messaggi però più numerosi, quindi valgono quelli, dicono che è un nome turco. Per la precisione, Zeynep è un nome di donna turco. Grazie a voi, grazie a chi ha reso possibile anche la puntata di oggi: Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Hina e Miriam, di cui non ricordo il cognome, ma adesso me lo dice al volo, Miriam, giusto? Miriam Lucchetti, Lucchetti, come il regista. La storia di oggi era la storia di Vincenzo e parlava di familismo amorale. Quella di domani è la storia di Emanuele e parla di libri nel cassetto. La ragazza al telefono si presenta, mi chiede se è possibile fissare un incontro presso i loro uffici nei giorni successivi, un appuntamento con il titolare. La casa editrice, una fra le 20 a cui ho mandato il mio lavoro, ha letto il manoscritto ed è interessata a pubblicarlo. Senza contributo economico da parte dell'autore, s'affretta a dire l'impiegata. Mi ricordo che mi sono fermato, che ci pensavo e non ci credevo.